Umidi. Gli umidi generalmente sono i piatti che più appetiscono, quindi è bene darsi per essi una cura speciale, onde riescano delicati, di buon gusto e di facile digestione. Sono in malavoce di essere nocivi alla salute, ma io non lo credo. Questa cattiva opinione deriva più che altro da non saperli ben fare. Non si pensa, cioè, a digrassarli. Si è troppo generosi con gli aromi e coi soffritti, e ciò che è il peggio, se ne abusa. Nelle grandi cucine, ove il sugo di carne non manca mai, molti umidi si possono tirare con questo insieme col burro, e allora riescono semplici e leggeri. Ma quando il sugo manca ed è necessario ricorrere ai soffritti, bisogna usarli con parsimonia e farli con esattezza, tanto nella quantità che nel grado di cottura.